Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la notizia del giorno arriva dalla Spagna e per apprezzarne la portata la farei precedere da una di casa nostra. Sono due notizie d'agenzia, quella nostrana di ieri, datata a Roma, e dice: ancora condanne lievi a Roma per i responsabili degli incidenti dopo Roma-Napoli del 31 agosto. Il giudice monocratico Antonella Capri ha condannato a 4 mesi e 800 euro di multa Alberto Siccardi dopo il rito abbreviato. Il giovane fu scarcerato dopo essere stato fermato dai poliziotti che gli trovarono addosso 2 bombe carta. Analoga condanna dopo il patteggiamento a un altro oltraggio allo rosso, quest'ultimo sorpreso mentre gettava in una scarpata un martello. Entrambi erano accusati di violazione della legge sulla sicurezza negli stadi. Per entrambi la pena è stata sospesa con la non menzione. La notizia che arriva dalla Spagna invece di stamattina: la commissione antiviolenza della Federazione Calcistica Spagnola ha proposto una sanzione esemplare per i tifosi responsabili degli incidenti avvenuti durante il derby di sabato scorso Espanyol-Barcellona. L'Espanyol pagherà una multa di 18.500 euro e va bene, mentre i tifosi coinvolti, ascoltate questa, 5 del gruppo Braugrana Boys of Noise e 1 dell'Espanyol, per lancio di bengala sul terreno di gioco, pietre contro i veicoli della polizia e per invasione di campo, dovranno pagare 65.000 euro di multa ciascuno e non potranno accedere agli stadi per i prossimi 5 anni. Allora, se vi va di fare un paragone, e se volete anche aggiungere che in un caso è la giustizia sportiva che sanziona la Spagna, nell'altro caso il nostro è un'altra giustizia, cioè dovrebbe essere la giustizia con la G maiuscola, fate voi i vostri conti. Credo che varrebbe la pena di varare una rubrica, da ora in poi, che si potrebbe chiamare tolleranza zero, no? Visto, e che potrebbe essere aggiornata poi di volta in volta con notizie di questo genere. Ripeto, un lancio di bengala sul campo, pietre contro i veicoli della polizia, invasione di campo, fanno 65.000 euro di multa ciascuno e divieto di accesso agli stadi per i prossimi 5 anni. La serata di coppe, i commenti innanzitutto dei due allenatori, cominciando da Mourinho. Un pareggio a casa non è mai un risultato che piace a me, che piace ai giocatori, che piace ai tifosi, non piace a nessuno. Ma se io analizzo di un modo pragmatico e freddo la nostra situazione nella Champions, abbiamo 4 punti, giochiamo le prossime 2 gare con l'Anorthosis Famagusta, che no, ripeto, non sarà facile, il risultato di Anorthosis dimostrano questo, ma io sono assolutamente sicuro, non al 99%, al 100%, che Inter sarà a 8 di finale. E questa sinceramente mi sembra un'impresa non catalogabile tra le bibliche, visto che il girone si compone di Werder Brema, Anorthosis di Famagosta e Olympiacos. Il commento di Spalletti dopo il colpo d'ala, dopo diciamo pure l'impresa, anche se poi insomma discretamente agevolata dalle circostanze, ma l'impresa della Roma a Bordeaux. Spalletti: certo, quando poi si vince è la miglior medicina per ricreare un po' di entusiasmo. Noi abbiamo bisogno dell'entusiasmo e di conseguenza, avendo vinto la partita, sono convinto che poi la squadra si scioglierà. È stata una partita difficile perché nel primo tempo loro sono stati bene in campo, noi non riuscivamo anche nelle cose più semplici e quindi questa inversione di tendenza nel secondo tempo mi è piaciuta, è stata una reazione da sottolineare. Torniamo in onda, ci ha raggiunto nel frattempo l'amico di Sky, Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Avrei già sentito probabilmente la citazione di Mourinho per questo Dream Team di Famagosta, no? ai cui danni probabilmente l'Inter si qualificherà. No, ma a parte gli scherzi, a parte le battute, che non possono non venire comunque parlando di una squadra cipriota, è vero che l'Anorthosis, che è in testa alla classifica a pari merito con l'Inter nel girone, nel gruppo B, e a parità anche di differenza reti 3-1, questa è una, l'altra è il Cluj-Napoli, o come lo voglia chiamare, questi rumeni del girone della Roma, che sono a loro volta in testa con 4 punti appaiati al Chelsea. Mi sembrano finora le mine vaganti di questa prima fase. La Roma addirittura è già saltata, perché perdendo in casa ha parecchio complicato la sua situazione, anche se poi ieri con il successo di Bordeaux in qualche modo si è rimessa in carreggiata. Il Cluj è una squadra che anche ieri non ha rischiato nulla, ha capito che comunque con il Chelsea un pareggio poteva andare bene per rimanere in testa. Se a Roma aveva dimostrato una buona organizzazione offensiva, grazie anche ai tanti sudamericani, soprattutto questo argentino Juan Julio, che mi sembra un giocatore di notevoli qualità, e ieri invece contro il Chelsea in casa ha esibito invece una buona organizzazione difensiva. Merito anche di questo allenatore italiano, che si chiama Trombetta, che era praticamente sconosciuto fino a 15 giorni fa, è un allievo di Guidolin e di Galeone. Credo che soprattutto la frequentazione di Galeone gli abbia dato qualcosa. Galeone è una persona molto piacevole con cui parlare di calcio e non solo di calcio. Questa Trombetta ha accettato questa sfida in Romania, si è trovato quasi all'improvviso capo allenatore, adesso sta ottenendo grossi risultati. Quanto all'altra, la Neurotosis di Famagosta è squadra cipriota. Noi abbiamo già sottolineato più volte che fino a una ventina d'anni fa, quando si incontravano le squadre cipriote, si stappava lo champagne, e invece adesso Panathinaikos ci ha già rimesso le penne. Il Werder Bremen è stato bloccato in casa. Mourinho continua a ostentare sicurezza, a mio parere fa bene, per il fatto che insomma se l'Inter non dovesse superare l'Neurotosis di Famagosta è inutile che facciamo tanti discorsi sulle possibilità della squadra nerazzurra in Europa. Però insomma è un Inter che evidentemente deve stare attenta, perché questi qui proprio scarsi non sono, come del resto ha dimostrato di non essere scarso il calcio cipriota quando aveva impegnato la nazionale italiana, che è uscita con una vittoria che obiettivamente dal punto di vista del gioco non ci stava proprio. Esatto, ma insomma la nazionale di una piccola nazionale che ogni tanto c'entra un'impresa o comunque che ci va vicino, insomma più o meno ci siamo abituati. La piccola squadra che si fa strada in Coppa contro le corazzate, e in un calcio in cui il divario tra i grandi e i piccoli club di budget e di tutto il resto è sempre più netto, è sempre più enorme, insomma, forse fa più sensazione. Dunque, torniamo alla serata di ieri. Un episodio brutto subito, innanzitutto, o comunque molto discusso. Il Barcellona ha segnato il gol del pareggio. Il Barcellona ha fatto più o meno la fotocopia di sabato sera, quando ha ribaltato il derby con lo Spagnol negli ultimissimi minuti e in maniera abbastanza avventurosa. Ieri è accaduta la stessa cosa. Il gol del pareggio di Messi, peraltro un regalo incredibile del portiere avversario, è nato da un'azione in cui il Barça non ha restituito palla agli avversari che l'avevano messa fuori per un infortunio. Da lì Lucescu, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha perso l'indirizzo di casa, ha tentato, pare, ma c'è un'agenzia che lo dice, di aggredire Guardiola, allenatore del Barça, nella zona mista dove si fanno le interviste, e poi ha detto che se una cosa così vergognosa, sto guardando un'agenzia spagnola, fosse accaduta in Inghilterra o in Italia, quelli del Barcellona non sarebbero usciti vivi dal campo. Non è la prima volta che Lucescu l'indirizzo di casa lo perde abbastanza seriamente, però è un fatto comunque inusuale in Champions League. Mi viene subito una battuta: potremmo convocare Lucescu e Guardiola, due ex bresciani in terra di Francia-Corte, davanti a una buona bottiglia, sì, fargli fare pace, sarebbe già una buona soluzione. Che poi Lucescu gli sia scivolata la frizione, uso un sottile eufemismo, questo è pacifico. Quanto all'episodio, io credo che sia il momento di regolamentare in qualche maniera queste situazioni, perché da episodio che nasceva per questioni di fair play, cioè si buttava la palla per terra quando si vedeva l'avversario o al limite anche un compagno per terra per prendere i soccorsi, via via la cosa è scivolata a episodio di furbizia con gente che rimaneva a terra appositamente per bloccare l'azione degli avversari. Certo. Quindi io credo che sia il momento, visto che la cosa tutto sommato su non esattamente identica, ma insomma in una situazione più o meno simile si era avuta anche nella partita tra Lione e Fiorentina, con Lione che aveva segnato il gol dell'1-2 con un giocatore della Fiorentina che era per terra, infortunato quanto gravemente o meno, questo naturalmente non è dato sapere. Credo che sia il momento di dare all'arbitro il compito di fermare il gioco quando c'è un giocatore per terra, altrimenti diventa una manfrina infinita, e credo che questi episodi finiranno per infittirsi, creando problemi, polemiche, questioni, anche perché poi quando ci sono appunto personaggi come Lucescu diventa facile spargere benzina sul fuoco. Quindi regolamentare una volta per tutte. Nel momento in cui sia l'arbitro a decidere, salvo che naturalmente qualcuno si renda conto che l'infortunio è piuttosto grave, allora in quel caso è chiaro che anche un giocatore in campo può intervenire, però insomma lasciare all'arbitro il compito di verificare la situazione toglierebbe, a mio parere, tanti problemi. Certo, senza per questo dimenticare che, visto che si parla di fair play, indubbiamente Brienza può qualche lezioncina ai fenomeni del Barça, per quel che si è visto ieri sera, oggettivamente la può dare. Parlerei anche di questa, adesso stavo per Di Moria, non esageriamo, ma insomma sta andando male alle squadre inglesi, non tanto sul piano dei risultati, perché quelli continuano ad arrivare, ma gli sta andando male sul piano degli infortuni, perché mi pare che tra Manchester la sera prima e Chelsea ieri il conto sia salato. Sì, hanno perso tante pedine dell'esercito, perché il Chelsea già deve fare meno di Essien per tutta la stagione, e a mio parere Essien non è un giocatore sostituibile nel Chelsea né in nessun'altra squadra. Lui si è fatto male con il Ghana. Ieri purtroppo si è fatto male Drogba, non è ancora chiaro quanto sia grave il suo incidente, ma a giudicare dalle immagini, con un Drogba che si teneva la testa tra le mani ed è uscito in lacrime, in barella, temo che l'infortunio sia serio. Non è certo Drogba il tipo da, ecco, ricollegandoci a quanto si diceva prima, da fare scena o rimanere per terra quando non è necessario. Lui no, ti interrompo un istante solo per dire che le prime diagnosi che rimbalzano da Londra sono tra le 6 e le 8 settimane, ma secondo me sono ottimistiche. Temo anch'io, spero naturalmente che sia questa l'esito dell'infortunio di Drogba, nel quel caso lo rivedremo più o meno tra dicembre e gennaio, e comunque pronto per la seconda fase di Champions League. Mi sembra una diagnosi un po' ottimistica, come mi sembra ottimistica la diagnosi che parlo di due mesi e mezzo per Paul Scholes, che ha avuto un infortunio ai legamenti, cioè c'è un interessamento dei legamenti mediali, lui la sera prima, e a mio parere anche lì un paio di mesi per un legamento mi sembra così un'ipotesi un po' troppo tenera, un po' approssimata per difetto. Sì. E quindi insomma Chelsea senza Essien e ragionevolmente almeno per un po' senza Drogba, Manchester che giocherà senza Scholes, con un Rooney che a sua volta si è fatto male ieri sera, senza Jack Herrick che si era rotto l'osso del piede in una partita contro il Liverpool, certo sono corazzate, sono squadre che hanno tanti uomini. Un esempio, nel Manchester martedì scorso è uscito Scholes e un tratto un certo Ryan Giggs, quindi insomma non è che di qualità poi no, si sia persa troppa. No. Però è chiaro che testimonia quanto sia difficile rimanere competitivi su due fronti, il campionato e la Champions League, perché gli impegni si infittiscono, le possibilità di infortuni aumentano, la stanchezza si fa sentire, e lo dimostra credo proprio il campionato della Fiorentina, che l'anno scorso era molto brillante anche perché priva di un impegno importante come la Champions League, e quest'anno lo è molto meno. Non c'è nessun dubbio, resta il fatto, sto scorrendo un'agenzia che riassume le disavventure del Chelsea, che per il doppio confronto con la Roma, perlomeno per la prima partita con la Roma, la prossima, che dovrebbe essere, se non sbaglio, in casa della Roma, e infatti è Chelsea-Roma e non potevo beccarci sicuro, c'era due possibilità al 50%. Per Chelsea-Roma comunque Scolari dovrà fare a meno certamente di Drogba, di Essien, lo hai ricordato, ma anche di Riccardo Carvalho e di Deco. Se uno volesse togliere 5 giocatori al Chelsea, credo che gli toglierebbe questi 4 e il portiere, correggimi se sbaglio. O Lampard, diciamo, ecco, sì, è vero. 6 giocatori gli restano Cech e il portiere. E Cech e Lampard, è vero. Diciamo che ci deve essere qualche divinità romanista che ha pensato bene di lanciare dei dardi contro i poveri giocatori del Chelsea. Certo, per la Roma si presenta una grande occasione, perché insomma affrontare un Chelsea in quelle condizioni non è un vantaggio da poco. Quindi con la Roma che ha necessità di fare comunque dei punti contro il Chelsea, è chiaro che è la situazione migliore, anche se poi la stessa Roma a sua volta di infortunati mi pare che ne abbia diversi e soprattutto uno cronico, che sarebbe l'unico vero giocatore che potrebbe cambiare un po' faccia, non solo al momento ma soprattutto alla stagione in prospettiva, ed è ovvio che sto parlando di Totti. Torniamo in onda, ci sono moltissimi messaggi, soprattutto a proposito di questa sentenza a carico degli ultra barcellonesi dopo il derby di sabato, che vi ripeto perché qualcuno chiede di ripeterla che non era ancora collegato. E insomma parliamo di per 6 ultra che hanno lanciato razzi e poi qualche pietra, e poi hanno tirato pietre contro degli automezzi della polizia, la sanzione del giudice sportivo peraltro, non di altre istanze, è di 65.000 euro di multa a persona, più 5 anni di interdizione agli stadi. E sono inevitabili i paralleli con la situazione nostrana, invece, che molti ascoltatori commentano. Segnalo un messaggio di Marco Canale da Chieri, che non leggo per evitare tumulti, ma che è certamente il più condivisibile. Ascoltatori già in attesa da Palermo, Torino, Salerno, provincia di Brescia. Una conversazione con Nicola Roggero da chiudere con questa proposta. Ieri sera ho visto, nelle due sere ho visto delle cose mediocri e delle cose invece di grande fattura, insomma, come è inevitabile visto che c'è il meglio del calcio europeo in vetrina. Credo che lo stop a seguire di Agüero in occasione del primo gol dell'Atletico Madrid, se ti è capitato di vederlo, sia comunque da podio, non so se hai presente. Sì, ho presente, del resto sai, Agüero sembra destinato a imparentarsi con un certo Diego Armando Maradona, ecco, dovrebbe diventare suo genero, quanto dicono le cronache rosa, e probabilmente nel contratto di matrimonio deve essere stato inserito anche una serie di clausole che riguardano i fondamentali del calcio. Quello che mi viene in mente è che l'Argentina, con giocatori come Agüero e Messi, che credo che a occhio e croce abbiano da poco superato l'età per prendere la patente, sì, ecco, l'Argentina potrebbe, già solo con questi due, potrebbe veramente diventare ingiocabile. Agüero, Messi più altri nove diventano formidabili. Diventa una cosa interessante. Io credo che lo stop a seguire ieri sera di Agüero sul primo gol dell'Atletico, un altro paio di cose che hanno mostrato, tra l'altro ti aggiorno sul gossip, perché in realtà la signora Agüero è già, che è la figlia di una delle due figlie di Maradona, è incinta. E, poi io ho perso di passaggio. Ecco, e a febbraio Diego Maradona diventerà nonno di questo nipotino, figlio di Agüero. Io, se ci fossero dei future da comprare su questo bebè, se fosse maschio, teniamo presente l'Aguerino. Potremmo forse tentare un investimento. Grazie Nicola. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Chiudiamo il collegamento con la redazione esteri di Sky. Adesso cerco, mentre intervenite telefonicamente, di fare un po' di scelta di tanti messaggi che varrebbe la pena di leggere. Massimiliano ha chiamato dalla provincia di Palermo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, io volevo ritornare sull'argomento Brienza, sul quanto riguarda il fair play in campo, se è possibile. Allora, io penso che sia assurdo legiferare su quesiti di ordine, insomma, assolutamente personale. Quindi secondo me non può esserci nessun Ulivieri del caso che possa dire cosa deve fare o non fare il signor Brienza in campo. Vedasi ieri sera il signor Messi, insomma, insieme al suo Barcellona, quello che ha fatto, secondo me, assolutamente da censurare. Volevo sapere, almeno io volevo che si prendesse una posizione definitiva, in quanto non penso che si possa andare a discutere ogni volta quello che si fa in campo. Mi scusi, ma lei è in contraddizione palese, cioè se vuole una regolamentazione non può che essere quella di Ulivieri. Sì, però dico, lei non ha saputo prendere posizione su Brienza né sul fatto che è stato sportivo o meno. Brienza è stato sportivissimo. Brienza ha fatto un gesto di una bellezza assoluta, e questo è un dato di fatto che non credo possa essere contestato. Se però si vuole risolvere il problema una volta per tutte, non si può che applicare quello che ha detto Ulivieri, perché è ovvio che se lasciamo la libera interpretazione del calciatore, nobilissima che sia o meno, come nel caso di Brienza, o magari diversa da parte di altri, interpretazione per esempio scorretta di ieri sera dei giocatori del Barcellona, se vogliamo appunto che ci sia un metodo comune, non può che essere quello, e cioè o l'arbitro fischia o non se ne parla nemmeno di fermarsi. Credo che non c'è alternativa, sicché non è un intervento che fa chiarezza, questo, mi pare, no? Denis da Torino, buongiorno. Ah, Denis. Denis, buongiorno. Denis. Niente, volevo fare una considerazione sui tifosi violenti. Ma lei, mi scusi, Denis da Torino, le domando l'età, se non sono indiscreto. Ah sì, 34. 34, quindi non può essere un nome di battesimo in memoria di Denis Lowe. Ah no, mio madre piaceva Denis Russos. Quindi, ma allora c'è la M, cioè M come Milano. Ah, bom, io invece sul display ho una N, mi veniva in mente questa suggestione. Ah, okay. Perché ci furono dei bimbi chiamati Denis, in omaggio a Denis Lowe, per quei pochi mesi che Denis Lowe restò nel Torino nel 61. Vabbè, dica. Niente, volevo fare una considerazione sui tifosi violenti, che stiamo sempre a parlare delle stesse cose. Quando gli altri stati fanno qualcosa, come abbiamo visto ieri, e noi non facciamo niente. L'unica cosa che abbiamo fatto è mettere i tornelli e togliere gli striscioni e il folklore dagli stadi, che non serve assolutamente a niente. Basterebbe fare una legge dove se tu tiri un bengala o tiri una pietra, ti fai 5 anni di carcere. Penso che la situazione si risolverebbe così. Sì, sì, sì, sì. Forse noi oggi siamo a quel livello, ma in Spagna, dove invece sono un pochino più tranquilli, ha visto, li cominciano dal portafogli, poi per il carcere c'è tempo. Cominciano dal portafogli. Qualcuno sta domandando per iscritto, ma se questi soldi non ce li ha, se questi soldi non ce li ha, probabilmente allora andrà davvero in galera. Non lo so, cioè, da qualche parte bisogna cominciare. Il portafogli è sempre un bel deterrente da toccare. Senza, no? Tra l'altro, non manca di rispetto ai fondamentali, no? Nel senso che non ci sono violenze, è un modo per difendersi, da qualche parte bisogna pur cominciare. Gli spagnoli, per esempio, in questa fattispecie hanno cominciato da lì, è giusto dire cominciare perché erano anni che non accadevano incidenti di quella portata. Da Salerno c'è Marco, buongiorno. Sì, da Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni, meglio. Cava dei Tirreni. Tra l'altro tifoseria inserita come la più cattiva tifoseria della Lega Pro, al sesto posto, cosa che per esperienza personale, perché vado allo stadio regolarmente, sono almeno 4 anni che non succede praticamente nulla, non si capisce come mai. Comunque questa è un'opinione naturalmente molto personale. Molto personale. Io volevo intervenire, appoggio quello che ha detto l'ascoltatore precedente e la sua risposta, però a me viene da cercare di capire la ragione per il quale è così. Io mi sono dato questa interpretazione che vorrei condividere con lei, che dove lo Stato non riesce a individuare una responsabilità soggettiva, riflette il suo intervento o quello che riesce a fare, tra virgolette, in una responsabilità collettiva, per la quale non potendo identificare o non volendo mettere i fondi, insomma, anche questo fa parte delle opinioni di ciascuno di noi, allora interviene con divieti di trasferte, divieti di striscioni che, come ha detto l'ascoltatore precedente, sono assolutamente inutili, senza però intervenire alla radice del problema. Certo. E la Spagna ha dato un esempio ulteriore di civiltà che forse questo paese dovrebbe cominciare a cogliere. Già, forse l'unico. Gibril da Legnano fa notare, anzi scrive, però dice: ma Ulivieri non critica Brienza, critica Farina. Siamo d'accordo su questo, ma indirettamente critica anche Brienza. Ma poi non è tanto importante se si critica l'uno o se si critica l'altro. L'importante, mi pare, per quel che può valere quel genere di casistica, ci sono cose più importanti nel mondo, ma insomma di quello si stava parlando, l'unica cosa è la certezza del diritto, cioè la certezza di sapere che non vale fermarsi autonomamente, deve essere l'arbitro a fermare il gioco. Luciano, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Ascolti, secondo me, tornando a parlare di Mourinho, si sta dimenticando più i problemi tecnici e tattici di questa della sua squadra. Si parla troppo un po' del personaggio, delle sue uscite, perché secondo me il gioco che vuole attuare Mourinho, in questo momento l'Inter fisicamente non riesce a supportarlo e a sopportare, nel senso che il tipo di gioco così dettagliato, così con dei reparti così stretti, con delle ripartenze veloci, palla a terra, in questo momento l'Inter, per caratteristiche fisiche e per una carenza di preparazione, secondo me non è attuabile, nel senso che secondo me l'Inter dovrebbe fare un 4-4-2. Ma lei ha già fatto, lei è già più avanti di me, Luciano, perché ha già capito che gioco vorrebbe fare Mourinho. Io sinceramente sono rimasto un passo indietro, perché non da una partita all'altra non riesco a individuarlo, sinceramente. Quando credo d'aver capito, nel mio piccolissimo, che tipo di calcio ha in testa, la volta dopo ne vedo un altro, quindi Quindi si vedrà, ma le sortite fuori dal campo sono strumentali rispetto, sono funzionali a questo che stava notando giustamente lei. 2 gli anni di squalifica per Riccardo Riccò, positivo all'EPO al Tour de France. Questa è la sentenza emessa dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI. La sanzione rappresenta la somma di 18 mesi per l'uso di EPO e 6 più 6 per la frequentazione del medico Santuccione radiato dal CONI. Scadrà il 30 luglio 2010. Molti ascoltatori di nuovo collegati. Francesco, Palermo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io avevo chiamato per Mourinho, però per quanto riguarda Pienza, che domenica mi trovava allo stadio, io direi addirittura che il signor Olivieri dovrebbe parlare con qualcuno per fargli dare un premio, no, di critical, perché vedo che quello che ho visto io poteva segnare bene, poteva semplicemente segnare, ma questo lo sappiamo da alcuni giorni, no, Francesco, e si è fermato per dare un aiuto al suo ex compagno. Ma lasciamo stare questo. Quando riguarda Mourinho, che viene criticato, beh, i giornali si stanno pure campando perché è facile, non c'è un personaggio più di lui, vedete che vedrei giocare l'Inter con 4 attaccanti. Io che sono interista da 40 anni, è da tanto tempo che non vedevo l'Inter attaccare con questo attaccante. Diamo merito a questo. Magari non avrà gli uomini in questo momento in forma, ma vedere giocare l'Inter diventerà semplicemente un dolcino. Scusate se parlo così. Lei è convinto di questo, sì? Convintissimo. Convintissimo. Cioè, siamo che il numero di attaccanti qualifica il gioco di una squadra. Francesco, io gliel'auguro. Ho l'impressione che tra le persone perplesse ci sia anche il presidente dell'Inter, più perplesso per i comportamenti forse che per le scelte tecniche e tattiche, ma da una prima serie di interventi di ieri, dopo un lungo silenzio, ho l'impressione che l'indice di gradimento nei confronti dell'allenatore sia già calato e non pochissimo. Elvio ha chiamato da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno Toganzi. Dica. Senta, io tanto voglio ringraziare che lei ci fa gustare un po' ancora il calcio come una volta in cui si poteva parlare senza mettersi le mani addosso. Io ho frequentato per 40 anni gli stadi senza aver mai dato e ricevuto uno spintone dal mio vicino, ma comunque queste sono storie da gente con i capelli bianchi. Volevo domandarle se lei per caso avesse visto ieri mattina, TV di Stato ovviamente, Rai 3, un intervento di un avvocato napoletano, di cui fortunatamente non ricordo neppure il nome, che prendeva le difese, ma proprio a spada tratta, dei napoletani che hanno devastato il treno, dicendo che in fine i conti non ne hanno 1000, forse hanno qualche centinaio, poi d'altronde le ferrovie non si hanno organizzate, quindi praticamente siamo tutti autorizzati nel momento in cui non troviamo posto sul treno a devastarlo. Certo. Cioè, volevo sapere se l'aveva. Elvio, ci sono rarissime possibilità, anzi direi che è praticamente impossibile che io veda qualcosa che passa in televisione che non siano partite di calcio, visto che mi tocca per ragioni contrattuali, se no sul resto sinceramente se la conosci la eviti, questo è il mio motto per quanto riguarda la TV attuale e comunque già da un bel po' di tempo a questa parte. Cosa vuole? Quello che sta dicendo lei è quello che sta accadendo. Sta accadendo nei processi anche a carico di questi ultra, no? Sono ragazzi. Alla fine di tutto il motto è sono ragazzi e quindi vediamo di non infierire. Vediamo di non fare gli spagnoli, per esempio. Vediamo di non multarli come ha fatto ieri la giustizia sportiva, e sottolineo sportiva ancora una volta, in Spagna. Federico, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie intanto della disponibilità. Mi rilasciavo proprio all'ultimo discorso che stava facendo della sentenza spagnola per gli ultras del Barcellona e auspicherei che potesse diventare una normativa quasi a livello di UEFA, in maniera che i soliti, perché alla fine si parla sempre delle solite teste calde, effettivamente si rendano conto che forse fanno meglio restare a casa. Dopo, un altro pensiero era, rilacciandomi a quello che è successo nella partita del Barcellona di ieri, con come si è comportato Leo Messi, e anche quello che era successo alla Fiorentina con il Lione, mi sentirei di dire da buon italiano che per anni ci hanno etichettato per tuffatori in area, prendiamo Inzaghi, dopo sono tifoso milanista, mettendo piene pagine nei giornali. però di quello che stanno facendo le squadre francesi, le squadre spagnole e non ricordo quella agli europei con l'Italia, quello va tutto quanto bene. Ecco, le mi era solo un piccolo sfogo, mi perdoni. Piccolo sfogo nazionale. Diamoci una botta di nazionalismo ogni tanto che non guasta mai. Aldo, chiamato da Siena, buongiorno. No, Aldo è caduto, mi fa cenno dalla regia. Mi auguro che sia valorosamente in piedi e combatte insieme a noi. Caduta la linea, ovviamente. Adesso andiamo a ripescarlo. Allora, da Roma c'è Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Salve. Allora, io sono un tifoso del Napoli e chiamo per dire che praticamente ero presente nella partita in questione Roma-Napoli del passato 31 agosto e niente, sentivo da qualche giorno insomma questa sorta di chiusura verso quello che è avvenuto in modo riprovevole quel giorno fatidico. Però diciamo io mi trovo d'accordo come non si trovano d'accordo molti napoletani presenti e non sulla cronaca dei fatti poi avvenuti in realtà quel giorno, perché leggendo anche su internet alcuni articoli visto che ho letto anch'io alcuni articoli su internet, mi permette di dubitare dell'attendibilità. Ecco, vabbè, dubitando dell'attendibilità, però c'era, io per esempio mi sono domandato come mai non avessero fatto vedere delle foto di questo treno devastato, delle riprese, visto che chiunque tra i tifosi e diciamo forze dell'ordine e chi peraltro, sono tutti muniti di telefonini, telecamere, almeno per documentare, perché è giusto documentare, non lo so, se guerriglia c'è stata è giusto documentarla, io ho visto soltanto la tifoseria arrivare alla stazione Termini urlando, accendendo diciamo fumogeni, buttando qualche petardo che credo ci siano sempre stati, non che siano accettati. Il pullman che su cui sono saliti, che hanno fatto il tragitto stazione stadio, anche lì regolare, cioè non... In realtà è stato ultra affollato, diciamo c'era molta gente. Quindi è la ressa, perché in genere quando c'è ressa i pullman si sfasciano da soli, no? Perché come dire, io credo che non sono assolutamente d'accordo, voglio precisarlo, sulle violenze, perché credo che il calcio sia uno sport da seguire con la gioia, anzi magari io sanierei proprio l'amicizia tra le genti, perché poi in vacanza ci si conosce tra nord e sud, dove di solito c'è l'odio, ci si diventa amici, quindi voglio dire è proprio una cosa proprio ignorante, diciamo. Però tante ne ho fatte di trasferte, le devo dire che a volte ci si carica su pullman che possono contenere 60 persone, 200 tifosi all'interno. E lì il pullman si guasta, poi è indubbio, no? Che cominciano ad esserci danni all'interno. Alessandro, grazie del suo contributo e della sua testimonianza. Ci sono ancora molti ascolti, non so se vogliamo andare avanti così, se vogliamo sentire qualche voce. Io sentirei, per esempio, giusto per spezzare questo filo, insomma, sentirei la voce di uno che ha compiuto gli anni ieri. Erano in due, no? I romanisti che hanno compiuto gli anni, e il regalo di compleanno se lo sono fatti da solo, andando a segno entrambi sul campo di Bordeaux. Sentiamo il compleanno di Vucinic. Siamo venuti in spogliatoio e abbiamo parlato tra di noi e ci siamo detti come dobbiamo giocare, che noi non siamo quelli. Poi siamo usciti in campo consapevoli proprio della nostra forza. Al di là che loro erano in uno in meno, non era facile, perché comunque stavamo sotto una rete e avevamo 45 minuti di vincere, perché noi questa partita dovevamo vincere per forza. Non capita a tutti festeggiare così, infatti a fine partita ho ringraziato la squadra che mi hanno fatto un bellissimo regalo. È stata indubbiamente brava la Roma ieri sera a cambiare il segno di una partita che sembrava veramente di direzione, insomma andare in direzione contraria. Ma è anche vero però che non si può tacere che tutto è accaduto per una superiorità numerica frutto di una decisione forse un po' severa adottata da quell'arbitro, perché insomma la gomitata per Rotta era un gesto che l'arbitro poteva tranquillamente sbagliare, perché il gesto era certamente poco apprezzabile. Poi forse per Rotta è crollato di gamba sana, come si dice da qualche parte. Aldo, chiamato da Siena, buongiorno. Pronto? Dica. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. Niente, volevo fare due considerazioni e voglio sapere quello che ne pensava lei. La prima è che di giocatori come Brienza, il calcio italiano avrebbe bisogno di un po' di più di giocatori come Brienza, e che perché invece di essere popolato di giocatori come Brienza, onesti come Brienza, è popolato di furbi. E poi la seconda, riconducendomi sempre alla parola furbo, è che, come dice Zucconi, Mourinho, secondo me, ci ha capito pochino, perché tanto decantato Mourinho, secondo me non è né intelligente né bravo, è solamente furbo, perché tutte le volte cambia formazione, tutte le volte cerca di innovare e non ci capisce nulla. Volevo sapere solamente dove ne pensava lei, siccome tanto è mastica di calcio. Furbo probabilmente sì, ultimamente no. Io ho l'impressione che il suo controllo dei nervi, cioè lui è uno che gioca sulla provocazione, è una scelta precisa che ha fatto e non da oggi. Ho l'impressione però che non riesca sempre perlomeno a reggere il gioco della provocazione. A parte il fatto che ho letto l'altro giorno che è l'idolo di Sgarbi e ho pensato che il signore li fa e poi li accoppia evidentemente, ma al di là di quello il gioco, questa battuta sui quattrini, per cui è stato duramente ripreso poi dalla società e da Moratti, ma duramente ripreso, perché quando un comunicato dice per iscritto FC Internazionale e José Mourinho intendono altresì precisare che nessuno degli importi evocati ieri in conferenza stampa corrisponde a quel FG Internazionale e José Mourinho, vuol dire: oh giovanotto, guarda che adesso anche tu devi smentire in prima persona quella fregnaccia che hai detto. Solo che non gli è venuta benissimo, tant'è vero che tuttora c'è chi è convinto, quorum ego, che quelle siano le cifre vere. Perché? Perché se avesse detto: no, guardi che i milioni non sono 9 ma sono 40, allora poteva essere la battuta, la gag, la cosa. Ha detto 11, per cui gli è venuta male, ed è su questo che ieri sera Moratti lo ha bacchettato duramente, ma duramente proprio, dicendo: in questo momento questo tipo, virgolette, in questo momento questo tipo di battute forse non cadono benissimo e quindi è bene trovarne di altro tipo. Non l'avrà fatto per fare del male, ma non è venuta benissimo. Certe uscite potrebbero nuocere alla sua immagine. L'importante è che non cada involontariamente in polemiche, in cose di questo genere, perché sennò diventano infinite. Beh, insomma, se vogliamo tradurlo in gergo militare, questo è un cazziattone in piena regola. Sono molto deluso e amareggiato, mi aspettavo sicuramente una maggiore comprensione. Queste le prime parole di Riccardo Ricò dopo i 2 anni di squalifica per doping. Credo ci sarebbe qualcuno che vorrebbe rispondergli con le stesse parole: sono molto deluso e amareggiato, mi aspettavo sicuramente una maggiore comprensione da tifoso del ciclismo e non pensavo di essere preso in giro anche da un giovane che si chiama Riccardo Ricò. Facciamo un ripasso di storia, quello quotidiano affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 ottobre 1980. Mohamed Ali, 38 anni, ritorna sul ring 2 anni dopo aver annunciato il ritiro. Al Caesar Palace di Las Vegas tenta di conquistare per la quarta volta in carriera il titolo mondiale dei pesi massimi, sfidando il campione in carica WBC Larry Holmes, che in passato era stato il suo sparring partner. Ma l'impresa si rivela subito impossibile. La supremazia di Holmes è evidente e al termine della 10ª ripresa, Angelo Dundee, storico allenatore dell'ex Cassius Clay, decide di gettare la spugna. Il KO tecnico inflittogli da Holmes è stato per Mohamed Ali l'unica sconfitta prima del limite subita in carriera. Marise è un buon giocatore, domanda Mina da Bergamo, e continua: a me non pare, ma tanto nemmeno a me, però, insomma, però è uno di quei giocatori pesanti, macchinosi, forse hanno bisogno di tempo per entrare in azione, non che il tempo sia mancato visto che è 2 ottobre, ma insomma. Che ne pensa, domanda Fabrizio da Verona, della prestazione di Balotelli di ieri? Sembrava andasse a spasso per il campo senza una posizione, senza mai entrare in partita, ma io qua sono un po' meno d'accordo, perché Balotelli ha un atteggiamento un po' indolente durante la partita, ma è un suo modo di stare in campo, insomma. Anche quando trova la giocata grandiosa, e gli è successo già nel recente passato, recente per forza perché è giovanissimo, tutto avviene sempre con una certa souplesse, perché è proprio il suo modo di muoversi, di correre, di giocare. Detto questo, sì, un impegno frenetico non è sembrato di vederlo, ecco. Paolo, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Il mio intervento era questo: io volevo soffermarmi anche sulle colpe della stampa nei confronti di questa mitizzazione di Mourinho, nel senso che hanno voluto troppo, secondo me, creare il personaggio, perché io sono un ex giornalista e credo che si commetta, dico commettiamo, anche se non scrivo più, ma commettiamo sempre l'errore di creare dei personaggi anche quando non ce n'è bisogno. Io ho assistito domenica la partita della Roma e Spalletti prendeva degli appunti che lo fa da una vita e il riferimento e l'accostamento è stato subito a Mourinho. Cioè, credo che anche la stampa abbia delle responsabilità e oltretutto sorvolando poi sui meriti tecnici, nel senso che abbiamo visto bene come credo che Ancelotti non abbia creduto ai propri occhi nel vedere l'Inter giocare e schierarsi in quel modo, quando Mourinho avrebbe potuto consultarsi con un semplice Arrigoni o con Gasperini su come affrontare il Milan. Io sono milanista e so che è una squadra che soffre molto gli allenatori italiani, perché la conoscono bene, quindi anche tutta questa preparazione di Mourinho a me è sembrata abbastanza precaria, però torno sull'argomento che anche la stampa ha le sue colpe. La stampa semmai può essere caduta nella trappola di Mourinho, no? Ma che non è inedita, perché Mourinho questo è, cioè, era così in Inghilterra, era così in Portogallo. È un personaggio fatto, non credo fatto, costruito, è un personaggio costruitosi così. E però mi pare che ci sia anche gusto, insomma, no? Perché qualcuno, come qualcuno rileva, rispetto a tante banalità assortite che quotidianamente ci vengono propinate quasi con lo stampino, ecco, Mourinho non ha ancora detto importante, non ha ancora usato l'aggettivo importante. Beh, questo è già un titolo di merito, secondo me, no? Visto che ormai è importante tutto per gli altri allenatori, dalla giocata all'avversario, al tempo, insomma. Quindi è chiaro che è un uomo tutt'altro che banale, che esce dagli schemi, e però questa sua originalità è, insomma, bisogna vedere in che percentuale naturale, in che percentuale costruita. Io penso che la percentuale di costruzione sia molto molto molto alta, e bisogna vedere fino a quando regge il gioco, soprattutto, ripeto, perché se dici che l'avversario è importante e che quello che conta è muovere la classifica, diciamo che il gioco lo regge abbastanza a lungo. Se ti metti a provocare come Mourinho provoca ad ogni piasso spinto, bisogna avere un bel autocontrollo poi per reggerlo il gioco. Michele, provincia di Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ascolti, io volevo fare tre interventi veloci. Tre? Sì, veloci però. Ascolti, il primo era riguardo ai giocatori che fingono, stanno per terra, poi magari quando il pallone lo prende la sua squadra saltano in piedi oppure escono un sorso d'acqua e sono già guariti. Secondo me basta che l'arbitro fischia, fa entrare la barella quello che deve entrare, li mandano fuori, il quarto uomo li tiene fuori 5 minuti d'orologio, poi col microfono in contatto con l'arbitro dice: guarda che sono passati 5 minuti, faccio entrare il tal giocatore senza aspettare che l'arbitro dia la facoltà di farlo entrare. La seconda era su Mourinho. Ieri sera non l'ho visto dopo la partita, nelle interviste molto sereno, al contrario è spavaldo come fa di solito. E la terza per Ricò. Lui ha detto che voleva un po' di comprensione, però se io voglio comprarmi una Ferrari e vado a fare una rapina e mi arrestano, mi fanno un processo, mi danno 4 anni, non posso dire volevo un po' di comprensione, volevo comprarmi una Ferrari. Questo. Grazie Michele. Sì, non dimenticherei però una cosa in tutta questa vicenda Brienza e negli addentellati, che le botte fanno male. Io non so quanti di voi hanno giocato a calcio, io sì, indegnamente, ma comunque sì, per un po' di anni. Le botte fanno male, cioè io questo ve lo posso garantire di persona. Ora, quando uno prende un colpo, credo che il diritto di star giù ce l'abbia, nel senso che non è detto che chi ha preso una lecca e sta per terra stia accentuando qualcosa. Il problema è sempre l'arbitro. Se l'arbitro non ha fischiato perché non era fallo, perché comunque tu sei caduto casualmente, perché ti sei fatto male per te, eccetera. Io credo che il giocatore ha il diritto di stare a terra, quello che ha subito un colpo. Gli altri hanno il dovere di continuare a giocare, tutto lì, perché sennò non se ne esce. E se hanno il dovere di continuare a giocare, questo dovere può essere interrotto solo da un fischio arbitrale. Armando, provincia di Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno, io la ringrazio per l'opportunità e le faccio complimenti per lo stile di condurre il programma. Allora, una considerazione tecnica, visto che il mio lavoro mi porta fuori casa sempre, e quando lavoro in Lombardia ho l'opportunità di vedere l'Inter come ho fatto ieri sera. Non parlo del personaggio Mourinho, io ho giocato molti anni a calcio e volevo avere un parere da lei sulle mie considerazioni tecniche. Sì. Allora, perfettamente d'accordo con un radioascoltatore che diceva che l'Inter gioca, sembra quasi che pensi a ciò che debba fare, no? Come, cioè, se non avesse ancora spontaneamente acquisito lo schema, tra virgolette, di gioco. Sì, come se non avesse metabolizzato, come se stesse cercando di imparare una lezione, quindi avesse degli imbarazzi proprio per questo. Io ho veramente vissuto questa sensazione. È vero. Però un'altra cosa, da giocatore, io mi rifaccio sempre una frase di un poeta dei primi del Novecento che diceva: è la semplicità che è difficile a farsi, no? E credo che il calcio, in tutta sincerità, sia questo: una buona preparazione atletica, una buona tecnica, una buona tattica, e non è che poi alla fine c'è da inventare molto. Però se dobbiamo tutto ricondurre agli schemi, lo schema tra virgolette di Mourinho è un 4-3-3. Io mi domando, secondo lei, come si può attuare un 4-3-3 senza uno di quei tre che abbia un briciolo di geometria, l'unico regista in quella squadra paradossalmente è Ibrahimovic, che dovrebbe essere quello che fa gol, in realtà è l'unico che è capace di saltare un uomo e di mettere una palla in mezzo. Ma infatti questo è un problema serio, tant'è vero che una parte dei problemi fino adesso li ha risolti anche ieri sera un finto terzino, che in realtà è un grande playmaker anche di gioco, che è Maicon, che in questo momento credo sia il giocatore di maggior qualità in assoluto dell'Inter, perché un conto le qualità è averle come le ha Ibrahimovic, e poi un conto è anche mostrarle e tradurre sul campo. Maicon le sta traducendo in un modo splendido. Faccio fatica negli ultimi anni a ricordare un esterno destro di questo valore, oltre che di quel fisico e di quella potenza. E indubbiamente l'operazione recupero Adriano è un'operazione positiva, meritoria da parte di Mourinho, però è un'operazione che costa, perché per l'appunto, se Adriano è uno dei giocatori che devono fare a Trade Union, lo apprezzi per gli sforzi che sta facendo, ma lo apprezzi anche in rapporto al palo della luce che era uno o due anni fa, insomma. Per cui è un discorso molto molto complesso, che mi spiace sia arrivato proprio a fine puntata, ma riprenderemo inevitabilmente dalla prossima settimana. Per il momento grazie a Pietro Lacorti in regia, a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani con Carlo Genta e Giornale Radio.